24. La storia. Pronto? No, l'ultimo contatto, questo è un terzo di contatto, qual è il costo? Roma? Con la 13 Alfa, con l'altra 13 Alfa alle 18.55. Da allora non si sa più niente. Allora. Pronto? Scusate, noi stiamo prendendo per buona quell'altro corpo 266 come se fosse 19. Però voi in nella stessa ora avete avuto altro traffico? Mandateci. Il 27 giugno del 1980, è quasi sera. Un aereo parte da Bologna diretto in Sicilia. Il volo è tranquillo. All'improvviso, una violenta esplosione. Nessuno ha il tempo di accorgersi di nulla. Tutti precipitano in mare. I resti affondano oltre 3.500 metri di profondità. All'alba del giorno dopo, il mare restituisce pezzi di lamiera e corpi di una parte dei passeggeri. Che cosa è successo? Quello che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia della tragedia di Ustica, l'abbattimento del 19 Itavia che il 27 giugno dell'80 ha provocato 81 morti, un giallo internazionale che lascia ancora qualche dubbio dietro di sé. Ripescare l'aereo sembra un'impresa impossibile. Dopo 10 lunghi anni succede e la sua figura intera viene ricomposta in un hangar militare. I corpi non restituiti immediatamente dal mare non verranno mai più ritrovati. Passano altri 16 lunghi anni. Il 27 giugno del 2006 i resti dell'Itavia vengono trasportati a Bologna, dove sono accuratamente lavati e pazientemente rimontati nella loro posizione originaria per essere destinati alla memoria e al pubblico a partire dal 27 giugno 2007. Il 27 giugno del 2007, quasi 30 anni dopo la tragedia, a Bologna si inaugura il Museo della Memoria della strage di Ustica. Un museo fortemente voluto dai familiari delle 81 vittime che la sera del 27 giugno dell'80 hanno trovato la morte nel cielo di Ustica a bordo del 19 di Itavia. Un museo che vuole essere anche un monito, un invito a non smettere mai di cercare la verità. E ancora oggi, infatti, dopo 30 anni di indagine, perizie, processi, accuse, sospetti, i dubbi che avvolgevano l'esplosione di quell'aereo sono stati risolti. Ci si chiedeva, era una bomba a bordo? No, un missile esploso da un altro aereo. A Roma il giudice priore, al termine della sua istruttoria, ha scritto testualmente: si è trattato di un caso di guerra in tempo di pace. Una tesi ribadita anche nel gennaio del 2007 nel corso del programma Radio Rai Baobab dal presidente del Consiglio dell'epoca, Francesco Cossiga. Sentiamolo. Per quanto riguarda Ustica, io credo che sia stato un attentato fallito da parte di un aereo delle potenze NATO, né italiano né americano, ad un aereo che si riteneva portarsi il colonnello Gheddafi. La realtà è che il colonnello Gheddafi doveva recarsi in Jugoslavia, ma il nostro servizio segreto militare, il CISMI, guidato dal generale Santovito, lo avvertì che poteva essere oggetto di un attentato. Sono convinto, sì, che l'aereo è stato abbattuto da un aereo di un paese NATO che non nomino e che ha puntato male il missile. Secondo Cossiga, dunque, ad abbattere il 19 dell'Itavia su Ustica sarebbe stato un missile sparato per errore da un aereo di un paese NATO, cioè di un paese amico. Ma Cossiga si è fermato qui. Non è stato più preciso, nonostante ovviamente la sua rivelazione clamorosa abbia suscitato molte polemiche. E insomma, un giallo senza fine che lascia molte domande, in cui l'unico dato certo è che ci sono 81 vittime e a parlarcene sono i parenti. Io ho perso mio fratello Alberto, che aveva 37 anni. Io gli ho comprato il biglietto dell'aereo quel pomeriggio, mi ricordo, quella mattina, e lui è partito perché doveva raggiungere la moglie e la figlia che erano già giù in Sicilia al mare in vacanza. E così ho perso un pezzo della mia vita, della mia storia. Io ho perduto il padre dei miei figli. C'era mia figlia, una bimba di 11 anni. Partiva accompagnata dalle hostess, in quanto lei stava raggiungendo me e la mia compagna, attuale mia moglie, in Sicilia. Veniva in Sicilia perché praticamente da quel giorno veniva ad abitare per sempre con me. Fratello aveva 12 anni, si chiamava Giovanni, ed era il mio compagno di giochi. Mia sorella invece aveva 22 anni, era più grande. Mio fratello aveva una grandissima passione per l'aviazione, era proprio incredibilmente patito, aveva aeroplanini, raccoglieva fascicoli sulla storia dell'aviazione. Quando ebbe l'opportunità di poter prendere l'aereo, chiese a mio padre e mia sorella di partire lui al posto mio. Quando mio padre gli disse: senti Giovanni, se obbedisce ad Antonella, ti comporti bene, parti tu al posto di Francesco, va bene. Mio fratello diventa felicissimo perché finalmente sta realizzando il suo sogno. Ho perso due sorelle giovani, fra l'altro, e tre nipoti, di cui il più piccolo appena 9 mesi. E allora vogliamo partire dai fatti per raccontare quello che è accaduto e dare voce ai protagonisti di quel dramma: i giudici, i giornalisti, i periti, i generali dell'aeronautica e naturalmente i familiari delle 81 vittime morte nel cielo di Ustica. Su Mix 24 continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia della tragedia del DG9 Itavia. Per tentare di capire cosa è successo quella notte, facciamo un passo indietro e ripercorriamo anche noi la rotta del velivolo in quella sera di venerdì 27 giugno. Buonasera, radar di Roma, è l'IH870. Buonasera anche a lei, 870, inserisca 1136 ed è autorizzato a Palermo via Bolsena, Puma, Latina, Ponza, 13. Quella sera, da terra, molti radar vedono il percorso del DC-9. C'è il radar del controllo del traffico aereo di Ciampino. C'è il radar di Poggio Ballone, in provincia di Grosseto. Benché il centro di controllo radar di Ciampino abbia visto uno spostamento e un successivo allineamento dell'aereo, l'equipaggio smentisce di aver effettuato qualsiasi manovra. Contemporaneamente, due piloti militari, Ivo Nutarelli e Mario Naldini, in volo con un F-104 sulla Toscana, lanciano per due volte un segnale di allarme generale. Forse i due hanno notato qualcosa di insolito nel cielo. Al DC-9 Itavia, però, non arriva nessuna comunicazione. Più a sud c'è il radar di Licola, vicino Napoli. Italia 860, diciamo, ha lasciato corsa 3 miglia sulla destra, quindi quasi va bene per Palermo così. Il DC-9 Itavia passa poi all'area coordinata dalla terza regione aerea, il cui comando è a Martina Franca, che supervisiona tutte le operazioni dei radar di Licola, Marsala e Siracusa. E dopo l'ultima comunicazione delle 20:56 e 54 secondi, da bordo dell'aereo Itavia c'è solo silenzio. Tutti i siti radar che controllano il traffico aereo sul Tirreno iniziano una ricerca frenetica del DC-9. Viene contattato anche un aereo dell'Air Malta in volo sulla stessa rotta a soli 12 minuti di distanza dietro il volo Itavia, ma il cielo è vuoto. Intanto, all'aeroporto di Palermo inizia l'attesa dei familiari dei passeggeri. L'aereo è dato per disperso alle 5 della mattina. E non capivamo cosa vuol dire un aereo dato per disperso, è caduto, è stato dirottato, cosa è successo? Mi sembrava troppo, una tragedia così grande non poteva accadermi, perché tu puoi perdere una persona, ma non 5, così tutti insieme. Suonavo la chitarra, io cantavo, tenevo allegra la gente. E invece sono venuto a Palermo a sedermi su un marciapiede e a vedere da mano in mano quello che arrivava. Per 5 giorni i mezzi di soccorso recuperano i pezzi dell'aereo rimasto a galla e quelle poche salme che il mare restituisce, 39 su 81 passeggeri. Il 28 giugno poi al centralino del Corriere della Sera arriva una telefonata anonima. Scriva, qui Inar, informiamo che nell'aereo caduto sulla rotta Bologna-Palermo si trovava un nostro camerata, Marco Affaticato. Per riconoscerlo aveva al polso un bombersier. Ma la notizia è falsa e il 29 giugno arriva la smentita. Affaticato è vivo, latitante in Francia, dove, si dice, collabora con i servizi segreti d'Oltralpe. La telefonata probabilmente viene dal centro sismi di Firenze. In quegli stessi giorni, intanto, la stampa inizia ad ipotizzare il coinvolgimento di altri aerei nel disastro del DC-9. Il 18 luglio dell'80 sulla Sila, in Calabria, vengono ritrovati i resti di un MiG-23 di fabbricazione sovietica e un caccia monoposto, matricola 6950, sotto un rettangolo verde, la bandiera dell'aeronautica militare libica. I sospetti sul coinvolgimento di altri aerei sembrano sempre più fondati. Nel frattempo l'inchiesta passa a Roma. Il pubblico ministero Giorgio Santacroce ordina una perizia a John Macidol, esperto del National Transportation Safety Board, ente americano specializzato sulle indagini sui disastri aerei. E così risponde l'esperto ai giornalisti della BBC nel 1982. Questi sono i dati su cui ha lavorato. Un tracciato della rotta elaborato dal calcolatore in base alla registrazione delle tracce radar rilevate negli ultimi minuti prima della scomparsa dell'aereo. La linea mostra la rotta effettivamente seguita dal DC-9 verso Palermo. Ma sul tracciato il signor McDowell vide anche altre cose. Alle 20:58 primi e 11 secondi il radar primario di Roma aveva captato una traccia. Dunque sarebbe stata individuata un'altra traccia oltre quella del DC-9. Si attiva anche il ministro dei trasporti Rino Formica, che nomina una commissione formata da Carlo Luzzatti con il compito di indagare sulle cause della caduta del DC-9. Nel dicembre dell'80 la commissione del ministro esclude l'ipotesi del cedimento strutturale, come spiega Carlo Luzzatti intervistato nel 1986. Esistono soltanto elementi che non lasciano dubbi sul fatto che l'incidente, la distruzione dell'aeromobile sia stata causata da un'esplosione. Io sono uno dei primi a sostenere la tesi del missile, non perché me la sia sognata, ma perché quella sera, la sera stessa dell'incidente, un paio d'ore dopo, un controllore di volo di Ciampino mi chiama e al telefono mi fa questa ipotesi. Avete sentito il giornalista Andrea Purgatori. Il 17 dicembre 1980 Aldo Davanzali, presidente della compagnia Itavia, scrive al ministro dei trasporti Formica che secondo i suoi esperti ad abbattere il DC-9 è stato un missile e lo spiega nell'intervista ad Enzo Biagi del 1989. Ha buttato giù un missile perché noi appena è avvenuto l'incidente abbiamo istituito innanzitutto una commissione interna della compagnia. E poi abbiamo esaminato il problema sotto tutti i punti di vista e abbiamo visto che l'unica spiegazione possibile poteva essere quella di un'esplosione che aveva abbattuto l'aereo. Il ministro dei trasporti Formica cita in giudizio Davanzali per aver diffuso notizie false e tendenziose. La tesi del missile si spinge troppo oltre le conclusioni della commissione ministeriale. Secondo Formica, per il momento si può parlare solo di un'esplosione, ma non è certo se sia avvenuta all'interno o all'esterno dell'aereo. Il 28 gennaio dell'81 il Ministero dei Trasporti revoca la concessione dei servizi aerei di linea alla compagnia Itavia. A questo punto l'unico dato certo su cosa sia successo al DC-9 è il tracciato radar di Ciampino, che evidenzia 2 punti notati anche dagli esperti americani che forse corrispondono a qualcosa che volava vicino all'aereo dell'Itavia. Ma la versione dell'aeronautica rimarrà sempre la stessa: non c'erano aerei italiani o NATO, militari o civili in volo. E allora perché è caduto il DC-9 dell'Itavia? Le ipotesi avanzate in questi anni sono state 4. La prima, il cedimento strutturale. La seconda, la collisione con un altro aereo in volo. La terza, una bomba a bordo. La quarta,

in Germania nell'incidente delle frecce tricolori che ha provocato la morte di 67 persone. Un altro mistero che si aggiunge al mistero. Le morti sospette legate alla strage di Ustica su Mix 24. Continuiamo subito dopo la pubblicità. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Mix 24. La storia. Ci sono, mi pare, all'incirca una quindicina di morti sospette che hanno a che fare con la strage di Ustica. Bentornati a Mix 24. Avete sentito Andrea Purgatori. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del giallo che avvolge l'incidente di Ustica con le sue morti singolari. Mario Alberto Dettori viene trovato impiccato a un albero il 31 marzo dell'87 sul greto del fiume Ombrone, vicino a Grosseto. Nell'80 era controllore di difesa aerea presso il radar di Poggio Ballone. Forse era in servizio proprio la sera del 27 giugno. Alle persone che gli erano più vicine aveva raccontato di aver visto qualcosa sui radar, come spiega la cognata Sandra Pacifici, intervistata nel 96 nella trasmissione Chi l'ha visto. Ho detto, vabbè, ma che hai fatto? Ti vedo così strano. Dico, ma che è successo qualcosa a te? Che è? C'è zitta, ci è mancato poco che scoppiava la guerra, è successo un casino. Proprio. Dico, ma perché? Dice, niente. Dice, meno si parla meglio. E ci sono, come dice il giudice istruttore, parecchi suicidi in ginocchio, per dire che, insomma, se qualcuno si vuole impiccare, generalmente non lo fa toccando con i piedi per terra. Avete sentito il giornalista Andrea Purgatori. Il maresciallo Franco Parisi viene trovato il 21 dicembre del 95 impiccato ad un albero di un suo piccolo fondo nella periferia di Lecce. Nel 1980 Parisi era controllore di difesa aerea presso il radar di Otranto. Parisi è di turno la mattina del 18 luglio quando viene ritrovato il MiG-23 libico. Nel settembre del 95 viene sentito a questo proposito dal giudice Priore. Sentiamo il giudice. Parisi era già stato sentito, come tutti i suoi colleghi che prestavano servizio in quella sera, quel giorno, ad Otranto, alla base radar di Otranto. Però poi si erano verificate delle necessità di risentirli e di rimetterli a confronto, proprio perché c'erano difformità tra le diverse versioni. Anche in questo caso si è sostenuto che potesse essere qualcosa invece di compiuto da altri. Perché? Perché l'altezza del ramo era piuttosto bassa, lo sgabello non si è capito come se fosse stato calciato da lui o meno. Vennero fuori storie strane, che sarebbe stato anche minacciato, sarebbe stato ripreso quando accennava a voler dire qualche cosa, però sono tutte circostanze, sono tutti fatti di cui noi non abbiamo una prova certa. Lei pensa che sia stato ucciso o che sia stato indotto ad uccidersi o che si sia suicidato? Che sia stato indotto non penso, più che sia stato ucciso. Era la moglie di Franco Parisi, Carla Conte, intervistata nel 2000 nella trasmissione Dossier Strage Ustica. Anche se è impossibile provare che si tratti di omicidi, anche su quelle morti il mistero continua. Ma il mistero più grande naturalmente rimane sempre lo stesso. Che cosa è successo al 19? Queste le convinzioni dei parenti delle vittime, Daria Bonfietti, Roberto Superchi, Fortuna Davi. Non ho mai pensato che fosse un incidente, capivo, sentivo che questa mancanza di notizie, questa mancanza di informazioni, questa mancanza di verità non poteva che essere sintomo di una verità indicibile. È importante sapere cosa è successo, perché è brutto andare a letto tante volte, ancora oggi dopo tanti anni, e non sapere come e perché è morta tua figlia. Se

Da subito molti sospettano che quell'aereo sia caduto la stessa sera del 19 e che dunque sia in qualche modo collegato alla strage di Ustica. L'aeronautica militare italiana invece ha sempre sostenuto che quel MiG libico è precipitato solo il 18 luglio dell'80, cioè lo stesso giorno che è stato ritrovato. Ad affermarlo è anche il generale Zeno Tascio, all'epoca capo dei servizi segreti dell'aeronautica. Il MiG viene messo in connessione con la strage di Ustica perché i due medici che effettuano l'autopsia del corpo del pilota dichiarano che il cadavere è in stato di decomposizione avanzata e quindi retrodatano la morte del pilota ad una ventina di giorni prima. Tra Ustica e la caduta ufficiale del MiG invece passano ufficialmente 22 giorni. Secondo i giudici di Roma, il MiG libico è caduto sulla Sila soltanto il 18 luglio e quindi con il disastro di Ustica non ha niente a che fare. Resta naturalmente il mistero di come sia caduto il MiG libico e perché sia caduto nei cieli della Sila. Daria Bonfietti, sorella di Alberto, vittima nella strage di Ustica, è presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage. Allora, che sia stato un missile ad abbattere il 19 quel 27 giugno è acclarato. Quando si è avuto la certezza? La si è avuta nel 1999 con la sentenza ordinanza del giudice priore che ha definitivamente acclarato che il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. Perché ancora si hanno dei dubbi o comunque non si capisce, alcuni ancora parlano di un'ipotesi diversa, appunto di una bomba esplosa a bordo? Ci sono i negazionisti anche della Shoah? Punto, non voglio entrare nel merito, ognuno pensa quello che vuole. Detto questo, proprio perché invece manca un altro pezzo importante di verità, e cioè gli autori, responsabili materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace, e questo è altrettanto importante, altrettanto determinante. Lei si è fatto un'idea di chi possa essere stato? Ma sa, soltanto il nostro ex presidente del governo della Repubblica per 7 anni e presidente del Consiglio la notte dell'evento ha detto nel 2007 che ad abbattere il 19 sono stati i francesi perché dovevano abbattere l'aereo del leader libico Gheddafi, e da lì la magistratura ha riaperto le indagini per chiedere alla Francia risposte rispetto a queste dichiarazioni, quindi non è che me lo sia inventata, è una potrebbero essere stati i francesi, quindi. Certo, questo dice il nostro solo Cossiga, della Repubblica e Presidente del Consiglio quella notte. Purtroppo per tutti gli anni prima del 2007 aveva sostenuto, come dicevano i militari che erano ai suoi ordini quella notte, che era stato cedimento strutturale. Questa è stata la grande menzogna, il grande inganno. Di Cossiga parliamo, giusto? Anche, per troppo tempo si è negato l'evidenza. Perché anche, dice? Sì, anche di Cossiga, ma anche di tutti gli altri che evidentemente, perché Cossiga sostiene di essere stato informato dall'ammiraglio Martini a metà anni 80, quindi tutte queste informazioni non sono mai arrivate alla magistratura, che aveva ben la possibilità di provare a capire se avevano un senso, se avevano un fondamento. Invece tutte queste informazioni non sono mai arrivate a chi dovevano arrivare e rimanevano così nel pourparler, nelle stanze inutili nelle quali sono rimaste. Infine, la sentenza del 22 ottobre 2013 ha confermato quindi che c'è stato un depistaggio nelle indagini, lo abbiamo appena detto praticamente, nella strage di Ustica. Lei quindi si è fatto un'idea di chi sia stato il responsabile a depistare? È evidente che la Cassazione ha, considerando valida la ricostruzione del giudice priore, condannato il Ministero della Difesa e il Ministero dei Trasporti per avere gli uni non controllato i nostri cieli e gli altri appunto depistato, tanto da non permettere la verità di venire acclarata. E quindi è un'indagine questa che deve essere continuata proprio per trovare le responsabilità. È evidente che ci sono uomini delle istituzioni che hanno preferito ubbidire ad altri ordini, una strana forma di fedeltà. Lei si è fatta un'idea dei nomi? Si è fatta un'idea dei nomi di queste persone? No, assolutamente, non posso permettermi di fare nomi, insomma, nel senso che è un compito della magistratura quella di cercare di trovare i responsabili anche materiali e le persone che hanno potuto impedire a questa verità di farsi luce. È chiaro che quella notte uomini degli apparati dello Stato italiani hanno deciso, insieme a coloro che erano presenti quella notte nei nostri cieli degli altri paesi, che questa verità non doveva essere acclarata, insomma, hanno fatto di tutto per fare sì che ciò avvenisse. Secondo lei è stato un errore lasciar morire Gheddafi, cioè poteva ancora contribuire sulla verità della strage di Ustica? No, Gheddafi l'ha sempre sostenuto. Pensi che Gheddafi ha mandato, se qualche magistrato l'avesse visto, un telegramma il 2 luglio del 1980 di non un telegramma, un necrologio, volevo dire, pubblicato sull'Ora di Palermo, che poi sarà reso agli atti, facendo le condoglianze ai poveri parenti delle vittime della strage di Ustica. Quindi se il 2 luglio del 1980 qualcuno voleva andarglielo a chiedere com'è che faceva un necrologio a queste persone, forse si cominciava prima a cercare, a aver voglia di cercare la verità.